Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le interviste di Mystery Tour. Questa sera chi abbiamo dall'altra parte del filo? Buonasera. Buonasera, sono Lorenzo Monni. Lorenzo Monni, che del quale stiamo sentendo in sottofondo un brano. Allora, ricordiamo, ecco Lorenzo Monni, abbiamo il piacere questa sera di averlo ospite, e grazie sempre all'aiuto prezioso del nostro carissimo amico Loris Furlan, che salutiamo sempre con affetto. Saluto anch'io. Assolutamente, personaggio fondamentale della scena italiana. Noi conosciamo sin dagli inizi della nascita della Lizard Records, quindi molto molto importante. In questo caso la Zeit però, giusto? Com'è? In questo caso non direttamente Lizard, bensì parliamo della... No, esatto, esatto, io Zeit esco Interference. Per una collana, potremmo dire, alternativa, che è la Zeit Interference. Esatto. E la motivazione è fondamentalmente che è un'uscita che si distacca un po' dalle sonorità classiche Lizard. E appunto per questo motivo quindi io sono, diciamo, in... anche come ci dico, un codice diverso. Ecco, appunto, qualcosa di assolutamente, possiamo dire, sperimentale? C'è della sperimentazione in corso? Io sono un po', diciamo, contrario a dei termini che tendano a mettere in un filone la mia musica, diciamo. Giustamente. Sperimentale non mi piace molto, perché sembra quasi alla ricerca di qualcosa a caso, no? Mm. E così in realtà non è, però possiamo dire che è una ricerca, sì, quindi forse è più specifico sperimentale che progressive nel mio caso. Sì, perché progressive sicuramente. Esatto, presuppone comunque delle forme ben riconoscibili. Esatto. Quindi da questo punto di vista potremmo dire sì, piuttosto che progressive sperimentale. Assolutamente. Ecco, come è stato il processo di registrazione di questo album? È stato molto lungo, è durato un anno e mezzo, ma per un motivo ben specifico. E il motivo è che l'ho composto mentre registravo. Mm-mm. Cioè, nel senso, le canzoni non sono state scritte prima delle registrazioni, ma durante, quindi le cellule ritmiche, le parti di canzoni venivano registrate e sul momento mentre io le stavo scrivendo, e ho utilizzato questo speciale metodo di composizione. Però ovviamente questo ha comportato dei costi, che sono stati un anno e mezzo di registrazione, ovviamente. Assolutamente. Quindi, da questo punto di vista è stata una cosa un po' particolare. Sì, decisamente. Voi dove, cioè tu dove sei stanziato? Poi vabbè, adesso mi parlavi di un trasferimento. Allora io sono della provincia di Venezia, però in realtà mi sto trasferendo a Como. Uh-huh. Perché devo specializzarmi in ingegneria del suono. Ah, ok. E quindi un trasferimento dovuto, ecco, a motivi di studio, che poi cose che tu applichi chiaramente anche in ambito musicale, ovviamente. Certo, questo è l'obiettivo fondamentale. Assolutamente, ecco. Ma esiste un'attività live? Allora, l'attività live esiste, ma attualmente non la faccio a mio nome. Ho un'attività con altre band, altri gruppi. Mm-hmm. Perché dal punto di vista logistico mi è difficile fare un'attività live per portare la mia musica. Nel senso che è difficile formare un gruppo apposito che sia fatto apposta per suonarla. Essendo una musica molto orchestrale e con molte tracce, e che richiede anche un certo impegno di interpretazione, e io non sono ancora riuscito a trovare i musicisti in grado e che si prestino a fare questo, no? Però attività live ne faccio appunto con altre band, altri gruppi che propongono altro tipo di musica. Certo. E le ispirazioni di tipo letterario, cioè qual è la prima ispirazione quando fai musica? Allora, la prima prima ispirazione quando faccio musica è ovviamente altra musica, però è ovviamente una cosa molto spontanea, nel senso non mi pongo degli ideali precisi, non mi pongo dei paletti, diciamo che non ho ben in mente un CD preciso o un'opera precisa quando scrivo. Ovviamente è tutto un discorso del mio passato di ascoltatore, che i cui ascolti si mischiano tra di loro e creano probabilmente quello che poi viene fuori. E mentre dal punto di vista letterario, per esempio, l'ultimo disco è stato, non diciamo ispirato, ma ha voluto in un certo senso descrivere il mood di un libro che io ho letto, che è Il Cigno Nero di Nicholas Taleb. È un libro particolare perché non è un libro di narrativa, ma è una specie di saggio sull'imprevedibilità degli eventi e sul caso che domina la maggior parte, diciamo, degli eventi umani e della società umana. E da questo punto di vista io mi sono ispirato, perché appunto ho fatto un lavoro in cui i pezzi fondamentalmente possono cambiare da un momento all'altro direzione e possono assumere caratteristiche opposte tra di loro all'interno dello stesso pezzo, appunto. Questo era il mio obiettivo, poi se l'ho raggiunto o meno aspetta all'ascoltatore stabilirlo. Beh, certo. E la presenza online invece? La presenza online c'è ed è anche abbastanza massiccia. Io da quando ho iniziato sono online fondamentalmente, quindi dal 2007 sono sempre stato online, e tra l'altro ho sempre messo a disposizione i miei dischi scaricabili e consultabili online. Inoltre sono sempre stato in contatto con numerose realtà italiane e estere online, da riviste online a portali, podcast, di tutto di più, insomma. Quindi direi che senza internet io non penso che esisterei. Oggi sì, è un po' difficile prescindere da questo aspetto. Certo, anche perché poi la cosa abbatte i costi di distribuzione e tutto quanto, e quindi è comunque un vantaggio per i musicisti emergenti. Certo. Allora, ecco, poi i prossimi progetti a breve o lungo termine, scegli tu. Sì, progetti ce ne sono tanti e il problema è sempre il tempo e gli investimenti. Io ho in progetto un nuovo disco, ma è ancora in fase, diciamo, embrionale, cioè proprio all'inizio. Invece c'è un progetto elettronico che sto curando e che è in coabitazione, diciamo, con i musicisti con cui ho già suonato in passato, e sono i Dunkelblau, un duo elettronico, e un disco, e questi lavori sarebbero dei lavori che dovrebbero uscire intorno a settembre più o meno. Però appunto questo è un progetto elettronico e non so ancora bene la direzione da dargli, anche a livello di etichetta, di distribuzione e tutto quanto. Sono in contatto con alcune etichette, però è una cosa che fuoriesce un po' dalla realtà Lizard, no? Mentre per quanto riguarda il discorso Lizard, appunto io sto facendo un altro disco che volevo proporre a Loris, con cui parleremo, e che potrebbe tra l'altro anche essere non solo strumentale, ma anche con parti di voce. Questa è un'anteprima interessante, tienici aggiornati, che appunto, certo, quando sarà il momento. Oltretutto ho anche in mente, ma anche questa è una cosa che devo sviluppare, una rielaborazione di alcuni testi dell'ultimo disco di Grey Zones of Extremistan, con anche delle parti di voce. Certo. Allora facciamo una cosa, ti lascio tu, prima di salutarci, scegli un brano. E perché? Perché hai scelto questo brano? Ok, scelgo un brano del mio disco, del mio ultimo disco, The Art of Being Amazed, e lo scelgo perché secondo me è uno dei brani migliori che abbia mai fatto, almeno secondo il mio gusto. Lo trovo perfetto come struttura, come suoni, come scelta e anche come melodie, e secondo me è un brano, uno di quei brani che può catturare subito l'ascoltatore, certo un ascoltatore comunque all'interno degli ascolti progressive o di musica che va sul particolare, però secondo me ha una sua immediatezza e per questo mi piace molto. Perfetto, allora noi ti ringraziamo, ci sentiremo non grazie appena a voi. Ci sia qualcosa di nuovo, poi tramite Loris soprattutto ci teniamo in contatto. Ti ringraziamo e appunto ci andiamo ad ascoltare The Art of Being Amazed.